disperatamente amanti, nuvole chiamate voi, la concupiscente lezione che non esiste più, né omicida né vittima, solo perennità nella passione. Mie maestre, vi amo, mie conseguenti, consanguine e nocchiere, or sparite or presenti, guide senza potere, ombre d'essenze, maestose potenze fragili, o voi agili spose, ombre alte di cose.